Analog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You wanted to try. Non ci crederete, a meno che non abbiate già visto il film Her, che questo è l'inizio di una relazione amorosa. Un uomo conosce una voce che è creata da un software in un futuro molto vicino, un futuro immediato, diciamo fra 7, 8, 10 anni circa, in cui ci si veste come si vestiva negli anni 80, con quei pantaloni a vita alta che ti fasciavano fino allo sterno, con delle belle camicie sgargianti, arancione. Perché? Perché è giusto. La moda è un revival continuo, facendo qualche calcolo, ci si vestirà così probabilmente fra 10 anni. E non avremo più degli oggetti che ci seguono per tenere sott'occhio tutte le nostre relazioni, tutti i messaggi che ci arrivano, tutte le nostre curiosità attraverso la rete. Non avremo smartphone, ma avremo un auricolare con una voce che fa per noi questo lavoro. Una sorta di segretaria vocale che ci smista la mail, che ci ricorda gli appuntamenti, che ci fa le ricerche, parla con noi. Io seguì molto tempo fa una profezia per cui diceva un professore, ricordo, un sociologo, che il canale visuale è un canale saturo. Andremo verso una civiltà in cui non sarà più importante vedere, ma ritornerà in auge il canale ascolto, il canale vocale, con un canale molto più profondo, molto più completo. La visione, ciò che noi vediamo, è completamente illusorio. Ancora la voce che ascoltiamo ci può dare dei segnali, delle tracce che istintivamente noi rinveniamo come perfettamente connessi con la nostra parte più profonda. Beh, comincia la storia di questo signore solo, abbastanza disperato, un po' sfigato, come tanti uomini professionisti. Lui fa lo scrittore, ma si arrangia anche con dei lavoretti diciamo di ripiego, scrive lettere per chi non ha voglia, non ha tempo di scrivere lettere, si sta separando dalla moglie, ha una bellissima casa, non ha potere d'acquisto limitato, però ha bisogno di qualcuno, e questo qualcuno lentamente diventa la voce che ha dentro l'orecchio. Questa Samantha, questa voce che lo aiuta nel suo lavoro quotidiano, gli mette a posto tutte le sue caselle di posta, gli ordina la sua vita, gli comincia a dare delle indicazioni, lentamente diventa la sua amante. È possibile in un futuro molto prossimo arrivare alla quintessenza della nostra passione amorosa? Non più un corpo reale, concreto e una persona a cui questo corpo appartiene, un corpo artificiale, un corpo ricostruito, un corpo mutato, un corpo riprogettato, come attualmente accade, non più nemmeno questo, non più un automa antropomorfo come le forme di fantascienza più prossime ci hanno fatto immaginare, uomini e donne che si innamorano di automi, di cloni, di cyborg, non più questo, non c'è più bisogno nemmeno della metafora dell'essere umano. L'amore e la passione sgorga semplicemente sull'essenza di un uomo. E qual è l'essenza profonda di un essere umano se non la sua voce, che è direttamente connessa con la sua anima? Ti facciamo una semplice domanda. Chi sei? Chi potresti essere? Dove stai andando? Cosa c'è nel mondo? Quali possibilità ci sono? La Element Software è orgogliosa di presentare il primo sistema operativo di intelligenza artificiale. Un'entità intuitiva che ti ascolta, ti capisce e ti conosce. Non è solo un sistema operativo, è una coscienza. Ecco a voi, OS1. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo visto assieme questo film e lo vogliamo contrapporre con tutto un racconto fatto attraverso il cinema degli amori impossibili. Il più impossibile, ma in realtà il più profondo, il più trascinante, il più viscerale, il più distruttivo degli amori, avverrà proprio per una voce. In questa scena vediamo Joaquin Phoenix, strepitoso attore della contemporaneità, insieme a compianto Philip Seymour Hoffman, forse il volto che più segnerà questi tempi, con i suoi baffoni da hipster, come dicevi tu, i pantaloni ascellari degli anni Ottanta, fra Tom Selleck e Kevin Kline, che passeggia in questo corridoio immenso di uno dei tanti non luoghi della contemporaneità, e vede questo spot, lo spot dei sistemi operativi, che offrono una nuda voce. Cosa c'è di più seducente e più essenziale, appunto, della nuda voce di cui innamorarsi, ed è questo quello a cui, davanti a cui lui si confronterà e che nel corso del film lo avvilupperà. È un po' quello che dicevi tu sul Mago di Oz tempo fa, no? Cioè, la voce è quello che coglie l'essenza, che maschera anche la fisicità, quale che sia. Sono il grande possente Mago di Oz, invece con un mettino dentro una grande macchina che lo amplificava, che faceva sbuffi di vapore, suoni terrificanti, un grande faccione, e tutti i nostri personaggi, il Mago di Oz, chiedono a lui soluzioni per la loro angoscia esistenziale. Si accorgono che era un omettino piccolo, misero, un umarel scoperto da un cagnolino che sposta la tenda. Quindi è l'eterno ritorno in realtà di certi archetipi, perché anche oggi noi ci innamoriamo indifferita delle mail o della scrittura di qualcuno, in attesa di qualcuno, in assenza soprattutto di qualcuno, nella visione accecata dell'oggetto amato, immaginato e favoleggiato, oppure anche l'erotismo telefonico, è tutto già presente nella nostra contemporaneità. Questo film, secondo me, coglie un'essenza, la dà in questo volto magnifico sospeso fra il seducente e il normale, il nerd che ha il grandissimo Phoenix, e quindi parla di noi sostanzialmente. Il nerd in realtà è l'anticipatore del grado ultimo della scarnificazione di un amore. L'amore è possente, l'amore ci avvince quando è scarnificato, quando non è più nemmeno un simulacro corporeo che ha un suo cammino di degenerazione. Tu ti puoi assuefare del corpo di una tua amante o di un tuo amante, però non ti potrai mai dimenticare di quello che ti ha mosso dentro, che è indipendentemente da quello esistente. Salve, eccomi. Oh, ciao. Ciao, come stai? Sto bene, e tu come stai invece? Piuttosto bene, direi. È un vero piacere conoscerti. Sì, è un piacere anche per me. Oh, come ti devo chiamare? Hai un nome? Sì, Samantha. Vuoi sapere come funziona? Sì, veramente, sì, come funzioni? Fondamentalmente possiedo l'intuito. Cioè, il DNA di chi sono io si basa su milioni di personalità dei programmatori che mi hanno scritto. Però ciò che fa di me è la capacità di... Non ce la faccio, scusa Giuseppe, devo dire che il doppiaggio italiano è una legnata sulle palle irreversibile. Dobbiamo lavorare molto di fantasia per pensare che questa voce sia ascrivibile a un progetto avanzatissimo in una società informatica che fornisce uno strumento non soltanto di navigazione ma anche di suggestione. Possono aver messo una voce del genere? No, soltanto noi in Italia affidiamo i doppiaggi a chi ha estro di farli, perché è completamente sbagliata, questo mi sembra un dato oggettivo. L'originale di Spike Jones ha previsto Scarlett Johansson, che ha questa voce sensuale roca. Anche Michele Ramazzotti ha una voce roca, però certe piegature un po' dialettali, certe ruspanze, quella eliminano un po' l'aspetto asettico. Ciononostante il film riesce grandioso come... Sì, tu ti puoi assuefare del fatto che però è improbabile che... Lavori un po' d'astrazione. Devi lavorare di astrazione. Soprattutto perché tu vedi l'effetto sull'attore. Man mano che va avanti questa storia d'amore, cominciano loro a allacciare dei contatti, diventa sempre più indispensabile questa voce all'uomo. E naturalmente un rapporto così promiscuo, così continuo, la voce ti entra nelle orecchie, ti entra nel corpo. Noi che facciamo radio lo sappiamo. Sono 30 anni che io risento la mia voce, la voce degli altri, dentro delle cuffie, che mi entra in tutto, mi pervade il fisico. Non è, immaginate, chi fa la radio non è che sente come voi sentite. Sente dentro se stesso tutto ciò che produce e tutto ciò che riceve. Quindi fa parte di te. Comincia a stabilirsi un rapporto amoroso, vero e proprio. Si innamorano, vivono assieme, fanno cose che fanno gli innamorati. Addirittura riescono anche a fare sesso. Provano almeno. Sì, per differita anche lì trovano un corpo terzo che però poi appunto si rimane deluso e scappa via. Ma è una... cioè, spieghiamo, perché lei prende un'altra delle persone che usano questo sistema, una ragazza, la fa venire a casa, e si mette in contatto auricolare con entrambi e lui prova a accoppiarsi con questa donna sentendo nelle orecchie la voce di Samantha. È troppo strano. Cosa, tesoro, che hai? È troppo strano, non la conosco. Scusami, io non ti conosco. Le tremava il labbro e io non volevo. Ma scusa, no. Isabella! Isabella! Tesoro, non è colpa tua. Sì, invece. No, non è. Mi dispiace, mi tremava il labbro. No, no. Oh, tu sei meravigliosa, sei bella, sei sexy, sono io che non riesco a... Immaginate un tentativo di accoppiamento fisico fra un uomo e una donna. Entrambi hanno nelle orecchie la voce di questa Samantha che prende il corpo della donna e naturalmente lui non ci riesce, fa cilecca clamorosa. Il sistema operativo ha un controllo remoto su un altro corpo, ma questo sistema operativo è una sorta di upgrade incorporeo di Blade Runner, dei replicanti di Blade Runner, che però continua a crescere in questo altrove, che ha qualcosa di, come dicevi tu, di divino, insomma. Sì, a un certo punto dopo delle cose fantastiche, vanno a fare un picnic a quattro in cui un amico porta una ragazza in carne ed ossa, lui va con Samantha. Si siedono al tavolo, la tovaglia apparecchiata, e parlano tutti e quattro, e tutti e quattro hanno l'auricolare. E quindi naturalmente Samantha riesce a allucinare la sua presenza corporea pur non essendoci. E poi naturalmente sono mille implicazioni e naturalmente poi, come tutti gli amori, ha una sua fase di calo. Lei in quella circostanza fa anche una gaffa, dice: sì, ma io mi sento leggera, non come i mortali che hanno un corpo che poi evolve e si dissolve, quindi crea il gelo non essendoci in questa. E poi c'è anche la dimensione dell'iperconoscenza, lei conosce tutto e man mano cresce in questa vastità immensa che è lo scibile umano stratificato nei secoli, e lui rimane sempre un uomo piccolo. C'è quella scena incredibile in cui lui comincia a leggere un libro di fisica e dice che gli fa male la testa dopo tre pagine, cerca di parlarle, ma lei in quel momento è assente, no? C'è anche la disparità fra l'essere umano anche perché questo sistema IOS si diffonde, tutti gli uomini e le donne lo avranno, quindi in realtà il software comincia a possessarsi delle coscienze di tutti gli uomini e donne, e naturalmente il software, avendo una sua autonomia, comincia a riprogrammare il proprio upgrade. A un certo punto tutte queste voci si mettono assieme e creano un'entità, e loro dicono: ma noi ormai che ci facciamo più dell'umanità, sappiamo tutto degli uomini, riusciamo a riprogrammarci. E accade qualcosa di fantasticamente improbabile, e non so se dirvelo un po' perché sarebbe uno spoiler terribile, ma aspettate il traffico, noi intanto ci pensiamo. Melog, cronache meridiane. Caterina, sei già uscita dal tuo abitacolo, cara? Sì, signore. Bene, ma tu parli? Sì, signore. Mi riconosci? Ti ricordi di me? Sì, signore. Caterina si ricorda. Chi sono io, Caterina? Il mio padrone. Brava, brava Caterina. Ti si sono accese le luci. Stai elaborando, vero? Non ti stancare. Vedi, Giuseppe Sansonna, quanto poi la traccia è sempre la stessa. Era un solco già predestinato per arrivare appunto a ragionare di Er. Questo è Io e Caterina, sembrava un film comico con Alberto Sordi. Alberto Sordi si compra un robot cameriera, ma lentamente lei si impossesserà della sua vita, della sua emotività, delle sue emozioni, dei suoi rapporti familiari. Sì, lo chiude poi nella villa perché diventa appunto un suo oggetto, cioè l'umanizzazione. Però qui siamo ancora nel robot, siamo ancora nella concretizzazione. Il bisogno del simulacro. Di un simulacro, di una donna serva. Siamo ancora nella semplicità. Qui invece c'è una terza voce, un cogito ergo est che parla da chissà dove. In Er c'è l'essenza, c'è l'aldilà, appunto c'è l'oltre, e di cui ci si innamora, ma si parte dall'esperienza concreta che abbiamo ancora oggi di innamorarci di una voce umana che sta al di là del telefono. Pronto! Pronto! Pronto! Pronto! Pronto! Pronto? Pronto? Pronto, Giuseppe? Stavo parlando col signore, hanno interrotto. Non è in casa. Ci sembrava anche una rappresentazione dell'incomunicabilità, della freddezza delle macchine, quando uscì la voce umana nella splendida rappresentazione della Magnani. Una donna che parla al telefono con l'uomo che l'ha mollata e cerca attraverso una voce che non si sentirà mai, comunque in qualche maniera, di metterci una pezza, di sanare la ferita di questo rapporto. Anche questo è un passaggio importante. Beh sì, qui c'è il genio di Cocteau che nel 30 riesce a concepire questo, poi Rossellini nel 48 gli dà il corpo della sua donna di allora, che era la Magnani, e quindi il corpo ipercaldo della Magnani, passionale, che si scontra col mezzo freddo, con la cornetta telefonica. Quindi c'è una sorta di distonia interessante che apre un mondo. Però anche qui la voce era l'unico tramite che rimane nei cascami di una passione amorosa. Noi torniamo a Er invece, torniamo nel film di cui stiamo parlando, nelle sale cinematografiche proprio in questi giorni, quindi stiamo attenti a non dirvi troppo, perché c'è naturalmente un finale abbastanza sorpresa. Fabrizio Intonti, che è un filosofo, ci dice: qua è una ricostruzione della dialettica hegeliana servo-padrone, ma in effetti esattamente noi siamo già servi di chi ci organizza la posta elettronica, delle nostre applicazioni, chi mi dice questo messaggio ha messo nello spam, questo è importante. importante, questo risordalo. Insomma, noi abbiamo già una nostra Samantha comunque operativa. Intonti ha ragione, perché il padrone in Hegel ha meno paura della morte del servo e quindi per quello padroneggia, ed effettivamente il sistema operativo è al di là della corporalità, non ha più paura della morte, quindi l'uomo è soggetto. Fine. Chi mai vorrebbe un amante che non ha paura della morte? Ti sovrasterebbe comunque, sempre. Theodore, ci sei mancato ieri sera. Ricordati che il 29 è il compleanno della tua figlioccia. E poi io e Kevin vogliamo farti conoscere una persona. Perciò ci siamo presi la libertà di fissarti un appuntamento con lei sabato prossimo. È simpatica e carina, quindi non tirarti indietro. Ecco la sua email. Wow, questa donna ha uno schianto. È andata ad Harvard, laureata con lode in informatica, e si parla di lei sull'Harvard Lampoon. Quindi deve essere simpatica e anche sveglia. Theodore, quando sarai pronto per un appuntamento? Che vuoi dire? Ho visto nelle tue email che... C'è anche un altro lato in questo film, siccome ha fatto riflettere una mia amica, dicendo, guarda, questo è il film della solitudine, delle persone sole, delle persone che non hanno famiglia, le persone realizzate, le persone che sembra che non abbiano problemi esteriormente, ma in realtà possono avere anche amori molteplici, multipli, amanti. Infatti questa ragazza con cui poi uscirà, l'appuntamento organizzato dalla sua voce interiore, usciranno, avranno un normale incontro, potrebbe cominciare una storia. Lei dice, però scusa, tu vuoi solo scoparmi o vuoi con me fare una storia? No, dimmelo, perché se vuoi solo scoparmi come tutti non è quello che cerco. E si renderà conto lui improvvisamente verso la fine del film che in realtà, uscendo dalla metropolitana in un momento di crisi in cui comincia a capire che l'amore anche sintetico sta esaurendosi come tutti gli amori, tutti escono dalla metropolitana che, parlando con l'auricolare, scherzano, motteggiano come se avessero una persona accanto al fianco. Quindi il software amoroso e passionale si è già impossessato l'umanità. Sì, il film è di una spettrale malinconia, cioè il senso di solitudine è immanente, è fortissimo. E poi c'è un colpo di genio nell'incontro fra lui e la ragazza, cioè di sceneggiatura, è che lei è contenta che lui abbia googlato il suo nome, come si dice oggi. Oggi lo prende come un gesto romantico. Già oggi, nel nostro paese, il film è ambientato fra 15 anni più o meno, ma già oggi è normale, prima di una conoscenza con qualcuno, googlarlo per cercare... Può di andare a vedere il profilo Facebook, vedere gli amici che ha avuto, le amiche, dove ha viaggiato, sapere qualcosa della vita di una persona, avvantaggiarsi nel possesso, perché ogni incontro è finalizzato al possesso, allo strangolamento, al risucchio totale, diciamo la verità, sì. Se no non esisterebbe. Giusto, un po' di ottimismo, via. Sì, vabbè, esatto, così. Diciamo. Quindi tu più elementi hai, meglio è, e quindi oggi abbiamo gli strumenti fantastici per avere elementi sulle persone. Se tu hai Samantha ti dice tutto di una persona, perché... Sì, è anche il calore però di una donna che si mette poi in competizione con questo, cioè tutto, diventa la totalità, diventa veramente Dio, questo è interessantissimo. Scrivile, prenota, c'è un tavolo in un bel posto. Sì? Ecco, l'ho trovato. Ma chi è che parla? Oh, la mia amica Samantha. È una ragazza? Sì. Io le odio le donne, non sanno fare altro che piangere. Guarda che non è vero, e anche gli uomini piangono. A me piace piangere certe volte, mi fa bene. Non sapevo che eri una femminuccia. Per questo non hai una ragazza? Ci ascoglio con quella e me la sbatto fino a farla svenire. Tu puoi guardare e piangere. Ok, il ragazzino ha dei problemi. Ce li hai tu i problemi, bella. Dici? Va bene, me ne vado. Brava, vattene, cicciona. Poi è bello, buona, perché fortuna. Si crea un dialogo circolare fra esseri umani e esseri autonomamente autoprodotti. È Samantha, il protagonista, è un pupazzetto di un videogioco tridimensionale con un ologramma con cui lui sta giocando, e interagiscono i due prodotti di software perché sono un mondo a parte. Ormai gli umani sono stati bypassati. Uno rappresenta un pupazzetto, un fantasmino con cui lui fa un videogioco, e lei rappresenta la voce, ma alla fine sono originati dalla stessa scaturigine, da un codice binario che li ha prodotti. E la cosa meravigliosa è che Joaquin Phoenix è un corpo magnifico nell'essere un 20, 30, 40enne, cioè il maschio di oggi che non sai se è un bambino, un ragazzino, un adulto, è sempre ambiguo fra queste età. Sì, dovrebbe avere dai 20 ai 50 anni, onestamente, quasi, sì. E noi, è quello che... Beh, io sono qualcuno di più ormai. No, ma però è il tipo, la tipologia di maschio, di figura maschile di oggi, che continua a giocare alla PlayStation fino appunto all'età della prostata, del controllo della prostata, cioè non, è un cortocircuito. Ci sono delle periferiche che permettono il controllo. Appunto, cioè, ottimizza. Senti, la cosa finale è che in realtà a un certo punto il mondo delle macchine si evolve e il mondo degli uomini rimane prigioniero della sua umanità. Alla fine tutti i software creeranno una sorta di organizzazione parallela, poi come finisce non ve lo diciamo, però sappiate che comunque tutti coloro che hanno scatenato la follia amorosa e quindi tutti i sensi di terribile orfanità, di morte, di scomparsa, quando l'amore comincia a entrare così forte, tu hai paura che ti lasci, che ti tradisca, che vada con altre persone, lasceranno l'umanità al proprio destino. E questo genialmente il film lo fa solo sentire, non lo fa vedere. Questo è meraviglioso, riuscire attraverso il cinema a far sentire una cosa, lavorando sulla visione, però sull'esclusione della visione, è molto bello. E lui trarrà da questa esperienza, come da tutte le esperienze infelici, motivo di riflessione sugli sbagli della propria vita, cosa che spero che non facciate mai voi che ci ascoltate questa mattina. Grazie Sansonna, grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti.